siamo divisi da un gelido cielo. Mentre tu mi illumini, io mi rispecchio nelle acque profonde. Indispensabili l'uno per l'altro, ma nessun legame profondo, e mai nessuno ci separerà.